L'ora s'abbuia, l'ora che era lunga. S'accorcia l'ora occhialuta e stralunata. S'acconcia la sottana, canta una canzone sdolcinata. Flerta coi ragazzi e gli dà uno strappo. Che nazi mamma l'ora di crauti e birra. Come vecchia adolescente, presto s'abbuierà. Non mi ricordo com'era giovane un tempo, quando giocava a strega maialetta col cerchietto e ballava con sei maschi tremendi il Django, quando faceva scappare i polli dal bacchetto e prometteva di sposarsi Tizio e Caio, ma non ci pensava poi manco per niente di ritornare la sera presto al suo pollaio. Ci fu un tempo che il tempo aveva tempo e il mare mi lavava con delicata brezza. Non esiste il terrore quando si nuota nudi o si va forte in motoscafo e si lancia la lenza. Ci fu un tempo che col singhiozzo il fiato trattenevo, ma in quell'istante il sorte cesso, non l'incontravo. C'hai tante maschere, sorte cesso, grande attore. Una volta t'eri impomatato un po' alla Valentino col gin di mio padre in saccoccia di straforo. E anche se il mio vitino di Vespa stava appeso all'uncino del tuo lungo braccio bianco per vertigini cretina, mai e poi mai no, non mi ghermiva il tuo fascino di canaglia truffaldina. Poi, sor decesso, tu m'hai teso un'esca, così m'han detto alla prima defiance, spronando la suicidina a festeggiar la sua nella gran pupazzata grande entrée. Ne uscivo impasticcata gridando adieu, un'ebreuccia nel suo campo di sterminio. Ora la tua birrosa trippa strarita, dottor Balanzone, mentre scorreggi ti saltano i bottoni sul panzone. Come posso giacermi con te, mio comico Florindo, che sei così di mezza età e tanto basso ceto? Allora tu mi imbusti, tu mi pressi, turbinino come una farfalla tu mi pressi, e per sempre la mia faccia pressata starà accanto a quelle di Mussolini e il Papa. Sorte cesso, quando andasti ai forni fu corto, e cortese altrettanto posti con l'affogato, e più carino di tutti col bimbo mio dell'aborto, e posti così e così anche coi crocefissi tutti. Ma quando vieni alla mia morte, fa che sia uno slow, l'ultima pantomima, l'ultimo porno show, perché devo ancora una volta provare, prima di potermi davvero spaparanzare nella mia nera cassapanca nuziale.